la versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16.34, anzi sono 16.35, quindi diretta di studio di Radio 24 questo venerdì 7 marzo. Qua a Milano sembra estate, praticamente incredibile, non so nelle altre parti d'Italia, però speriamo che duri, cosa volete che vi dica? Speriamo soprattutto che non sia un calore che però ci restituisce l'idea anche del caldo che continua a fare nell'economia italiana, purtroppo un clima non rasserenante. Di che cosa parliamo oggi? Ve lo dico subito, così potete telefonare a 800 24 00 24. Anche oggi, dopo le più puntate che abbiamo dedicato al Salva Roma, organizziamo una riflessione su un pezzo dei problemi di Roma. Parliamo dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, perché abbiamo qui con noi, ve lo presento tra pochissimo, un manager che ha una responsabilità centrale esattamente in questo campo, che è appena arrivato in realtà a dover gestire un pezzo delle tante municipalizzate romane che si trovano in gravi difficoltà, diciamo, finanziarie. Detto questo, quindi telefonate per dirci cosa pensate dei problemi dei rifiuti a Roma, però come sempre faccio un'altra dedica. Dopo i casi di cui ci siamo occupati ieri, no? L'esempio della follia dello Stato che ha piappato 62.000 euro di multa all'osteria senza oste a Val Dobbiadene, un'altra vicenda che racconto in 15 secondi, in questo caso è quello di un medico, anche qui siamo in Veneto, nel Trevigiano, si chiama Ilan Brauner, è un cognome che fa capire che la sua origine non è esattamente italiana, in realtà è un israeliano che esercita qui la professione, e questo medico ha preso una praticante di studio per meno di 15 giorni, dopodiché non ha constatato che non aveva la minima capacità, purtroppo non sapeva battere a macchina, non sapeva lavorare su un computer, non sapeva quindi rendersi utile, e in questo caso quindi gli ha detto: no, guarda, la prova non è andata bene, mi dispiace, ma devo assolutamente chiederti di desistere. E questo è avvenuto 11 anni fa, e dopo 11 anni Ilan Brauner, che secondo me è una buona testimonianza di che cosa significhi la follia delle leggi italiane, si trova, per effetto del ricorso scattato 3 anni dopo quei fatti durati pochi giorni da parte della persona che non era stata all'altezza, ecco, si trova a dover pagare tutto, dovendo cumulare tutto, cumulandosi su l'indennità, i contributi mancati, gli anni passati, eccetera eccetera, una cartella di Equitalia che comprende tutto quanto deve all'INPS, eccetera eccetera, che ammonta a 500.000 euro. Per chi volesse saperne di più, trovate questa vicenda oggi a pagina 19 della Stampa. Noi tenteremo di far venire in trasmissione Ilan Brauner per farci spiegare come una verifica, volendo dare lavoro di inadeguatezza con una prova a un giovane stagista in pochissimi giorni risolta, può portare nel nostro ordinamento a dover pagare 500.000 euro. Pensateci. Detto questo, allora torniamo all'argomento principe del giorno, e abbiamo con noi qui l'amministratore delegato di Ama Roma Spa, appunto, è la municipalizzata che si deve occupare del problema dei rifiuti. Si chiama Daniele Fortini e io lo ringrazio di essere qui con noi. Lui è arrivato da pochissimo alla testa dell'azienda, è un'azienda che aveva un nuovo capo azienda solo all'inizio di gennaio, Strozzi si chiamava, se non che è durato pochissimo perché è stato uno dei gli infortuni in cui è in corso il sindaco nella nomina. Dopo la nomina è scoppiata una polemica perché il predecessore in realtà era indagato proprio per la sua precedente esperienza in altre aziende municipalizzate dei rifiuti, per un consorzio che si era formato in Sicilia nel 2005 per rispondere a una gara d'appalto, era indagato, si è scoperto dopo, insomma alla fine si è arrivato a una nuova sostituzione. Daniele Fortini è, per chi lo ha seguito negli anni, una persona competente, perché viene fino al giorno prima del suo incarico a Roma era la testa di Asia Napoli, altra azienda che ha un bel problemino da risolvere storicamente, perché sapete come il problema dei rifiuti a Napoli sia un problema perennemente sull'orlo di andare oltre l'emergenza, poi ci rimane per un po' e poi torna indietro. Adesso sta a Roma ed è presidente però da diversi anni anche della Federazione Italiana delle Imprese di Gestione Ambientale, quindi diciamo è un professionista. Buongiorno e grazie di essere con noi, Daniele Fortini. Buongiorno a lei, dottore, e agli ascoltatori. Allora, lei è appena arrivato e ha fatto un'intervista di cui parleremo immediatamente. Io ricordo a chi è in ascolto che l'AMA era nel 2007-2008 in condizioni gravissime di bilancio, all'inizio della sindacatura di Alemanno. In qualche modo si provvide, poi gli ultimi due anni, 2011-2012, anzi il terz'ultimo, il penultimo, chiusero con dei risicatissimi avanzi, con degli utili, se non che poi le cronache romane sono state, per così dire, incendiate a dicembre tra i tanti problemi che arrivavano di fronte alla protrazione del bilancio, all'incertezza se ci fosse il Salva Roma oppure o meno, dal fatto che poi l'assessore al bilancio comunica al sindaco Ignazio Marino: guarda che noi abbiamo un extra costo dovuto ad AMA di 53 milioni per l'anno prossimo, ed è un'azienda che, sommando il suo debito e l'esposizione con i fornitori, arriva a più di 700 milioni di esposizione, quindi ha una struttura finanziaria diciamo molto esposta, ha problemi di costi elevati, ma parleremo di questo subito, ed è stata spessissimo al centro in questi anni di reiterate accuse da parte della destra quando era al governo di Roma, da parte della sinistra quando era al governo di Roma, di essere diciamo così caratterizzata insieme all'ATAC per avere dirigenti nelle controllate dell'AMA e nell'AMA vicini alla politica da una parte e dall'altra. Ecco, questo per fare la sintesi. Però quello da cui vogliamo cominciare è questa intervista in cui Fortini ha cominciato il suo lavoro, ha fatto sobbalzare mezza Italia e moltissimi romani dicendo: qui tra 7.800 dipendenti ci sono dei giorni in cui sono quasi 1.000 a mancare al lavoro. E com'è che ha deciso di dirlo, caro Fortini? Ma intanto la ringrazio, perché la sintesi sulle condizioni di AMA che lei ha fatto è assolutamente corrispondente, quindi in poche parole ha reso l'idea della circostanza, cioè di un'azienda importante, strategica, organizzata, e che però nel corso degli anni ha subito delle stratificazioni di squilibri che si sono andate moltiplicando e di cui ad oggi portiamo purtroppo il peso. Io mi sono deciso a denunciare quella circostanza intanto perché è macroscopica: il 18% di assenti ogni giorno dalla produzione dei servizi, quindi dalla catena di montaggio dell'azienda, è un tasso troppo elevato. Tenga conto che la media nazionale pure non è bassa, perché è intorno al 16%, ma le migliori pratiche a livello nazionale di aziende come la nostra, comparabili per dimensioni e caratteristiche, Milano e Napoli, ci restituisce un dato dell'11%. Quindi, aspetti, io la fermo qua solo per far riflettere i nostri ascoltatori. Quando esplose la vicenda Fiat anni fa, a Pomigliano, dove si avevano percentuali di mancanza quotidiana da lavoro che andavano tra l'8,5 e arrivavano persino all'11%, esplose un gravissimo problema che contribuì ad arroventare poi i rapporti tra azienda e rappresentanze sindacali, tenuto conto che la media, allora sto parlando del 2009, delle assenze dal lavoro nel settore metalmeccanico, cioè delle aziende aderenti a Federmeccanica Italiana, non era nella media mai superiore al 4%. Qui siamo in presenza di percentuali che lei ci ha appena riportato molto molto più alte. Vabbè, comunque insomma. occorre tenere conto di un fatto, dottore, che cioè che quando noi diciamo assenteismo si intende assenze dal lavoro, certo. In queste assenze dal lavoro ci sono ovviamente le ragioni, sono, certo. Esatto, certo, ci sono anche certo. i permessi sindacali, certo. Ci sono le ferie da godere, eccetera, eccetera. Però il dato è comparabile: 18% Roma, 16% Italia, 11% Napoli e Milano. Quindi è chiaro che c'è un'anomalia, una distonia che deve essere corretta. Questo Napoli dopo la sua cura, per così dire. Devo dire che io quando sono arrivato a Napoli già ho trovato delle virtuosità, quindi non è merito mio, io le ho conservate, le ho migliorate magari, però già le ho trovate, quindi Napoli era già in condizioni migliori di Roma qualche anno fa. E vede, il dato più eclatante è quello della morbilità, cioè le malattie brevi. A Roma è superiore all'8%, a Napoli è al 5%. Ora, se teniamo conto del fatto che a Roma abbiamo una popolazione operaia dell'azienda che ha un'età media di 45 anni e a Napoli è di 58 anni, non è possibile che una popolazione operaia più giovane si ammali di più di quanto non si ammalino gli anziani. Peraltro a Napoli, quindi è chiaro che lì c'è qualcosa che è accaduto nel corso degli anni che ha creato disaffezione, malcostume, e dobbiamo intervenire a tutela soprattutto dei malati veri, perché è lì che ci devono scattare le garanzie e il riconoscimento del diritto, ma quelli che malati veri non sono devono lavorare. Ecco, io non so come, dopo averlo detto, naturalmente la cosa ha avuto un grande eco sui giornali, all'indomani in azienda le rappresentanze sindacali come l'abbiano accolta, se si è confrontato con loro, gliel'aveva detto prima, che cosa è successo? Beh, devo dire che l'atteggiamento dei sindacati in questo momento è molto prudente, vale a dire che dopo anni nei quali vi è stato un certo tipo di dialogo fra azienda e sindacati, magari talvolta mediato anche dalle amministrazioni e dalla politica, in questa circostanza l'impronta che io sto cercando di dare è quella che l'azienda fa l'azienda. E l'azienda esiste perché deve dare un servizio ai cittadini che pagano. L'azienda non esiste per se stessa, non esiste per fabbricare stipendi. Dentro questo percorso c'è spazio per un sindacato importante, autorevole, che concorre a far sì che l'azienda possa avere un futuro, garantendo i servizi ai cittadini e quindi proteggendo il lavoro dei lavoratori e non di chi non lavora. Allora, io la devo interrompere perché ci abbiamo 60 secondi di informazione strada, siamo già in ritardo. Faccio notare a chi è in ascolto che un manager pubblico che dice che le aziende pubbliche municipalizzate esistono e devono esistere in quanto devono offrire servizi secondo cose standard e non per giustificare il posto di chi ci lavora è già una anomalia in Italia. Ecco, c'è un volantino che gira a Roma in questi giorni di un'unione sindacale di base che invita tutti i dipendenti pubblici romani, c'è scritto testualmente così, alla giornata dell'orgoglio capitalino, cioè a uno sciopero, e lo slogan di questo volantino è spezia l'accerchiamento, e l'appello ai lavoratori delle municipalizzate di Roma è perché ci sarebbe una specie di complotto contro di loro, mentre qui il problema invece è far rientrare gli squilibri finanziari, la qualità dei servizi in quello che è una media accettabile. Non è un complotto contro nessuno e non c'è nessun attacco generalizzato, però i numeri delle piante organiche rispetto alla qualità del servizio, quelli devono essere il criterio. Strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:48 e 58 secondi, e con noi l'amministratore delegato e presidente di Ama Roma Spa, l'azienda municipalizzata che si occupa appunto della raccolta dei rifiuti. Ha appena iniziato questo incarico, prima stava all'ASIA di Napoli, e ha esordito appunto puntando il dito contro la percentuale troppo elevata di chi nella media nell'azienda romana non è al servizio quotidiano, la percentuale del 18% di 7.800 dipendenti. Tocchiamo un altro punto, Fortini. A fine anno, a dicembre, i quotidiani romani riportarono con grande evidenza che ancora una volta l'AMA, o meglio l'amministrazione comunale a Roma, non era stata in grado di rispettare l'accordo pluriennale di miglioramento della raccolta differenziata sul totale dei rifiuti che la impegnava per il 2013 a fare il 40%, mentre invece nel risultato concreto ci si fermava a poco più del 35%. I suoi obiettivi e concretamente, una volta che si è fatto un'idea di come migliorare, diciamo così, il servizio, che cosa dicono rispetto a percentuali di grandi città italiane che sono più elevate, talvolta anche significativamente più elevate di questo 35-36%? Sì, dobbiamo tenere conto di un fatto, e cioè Roma, 2,8 milioni di abitanti, più le presenze turistiche degli studenti universitari, dei non residenti, delle comunità ospiti, eccetera, è una città che complessivamente è vissuta ogni giorno da 3,3 milioni di abitanti, non è comparabile con Padova, con Verona, non con Bologna, con quindi noi dobbiamo compararci con le altre grandi capitali europee. Anche perché voi ci avete più di 3.300 chilometri di strade a cui badare. E il territorio dimensionalmente più ampio come territorio comunale rispetto a qualunque altro territorio d'Italia e d'Europa, inteso come territorio municipale. Se ci compariamo alle altre grandi capitali europee, Roma, che ha raggiunto ormai il 38,7% nel mese di gennaio 2014, rispetto alle altre capitali che hanno fra il 31 e il 35%, non è proprio la peggiore. Quindi lei dice, tutto sommato, bisogna migliorare, ma non siamo in fondo. Esattamente, così come l'Italia non è in fondo alla classifica, abbiamo la raccolta differenziata al 41% a livello nazionale, siamo fra i primi 7 paesi d'Europa, quindi tante volte noi abbiamo, come dire, questo sentimento di autofustigazione e invece un po' di orgoglio e di fierezza varrebbe da dispiegare, però il fatto è che noi abbiamo obiettivo a dicembre di quest'anno 50%, è un obiettivo pauroso da raggiungersi con grandissima attenzione e grande dispiegamento di forze. In più non possiamo aumentare i nostri costi, anzi li dobbiamo diminuire, e andando nella modalità di raccolta differenziata porta a porta, perché altrimenti il 50% non si può fare semplicemente svuotando i cassonetti sulle strade, abbiamo bisogno di più risorse umane e dobbiamo sostenere maggiori investimenti. Quindi senza chiedere più soldi, ma efficientando, dobbiamo mettere a disposizione più risorse umane e più investimenti per raggiungere un obiettivo del 50%. E questo è il triplo salto mortale che mi è stato chiesto di compiere. Posso chiederle se, senza entrare nei dettagli del rapporto riservato tra lei, il sindaco, gli assessori competenti, se al momento dell'incarico le hanno fatto un quadro dei tagli rispetto al contratto di servizio e alla dotazione annuale da parte del comune previsti per questo 2014 o 2015, perché quando ci fu tutta la polemica in attesa del decreto, l'assessore Morganti si trovò a dover dire al sindaco: guarda che noi l'ordine di grandezza di quello che dobbiamo spendere in meno, sommando in quel caso le due maggiori partecipate e controllate, cioè ATAC e AMA, ATAC più grande di voi, cioè ha 12.800 dipendenti, però insomma la cifra fatta dall'assessore Morganti era molto molto molto molto molto pesante. Gli hanno detto quanto gli danno in meno? Ma guardi, io devo dire che le regole di ingaggio le abbiamo non negoziate, ma diciamo così conciliate nella massima chiarezza e trasparenza. E quindi delle condizioni in cui si trova l'azienda io ne ho avuto piena contezza nei giorni immediatamente precedenti il mio incarico. La cosa sulla quale ci siamo intesi è questa: se vogliamo raggiungere gli obiettivi, il 50% di raccolta differenziata, la possibilità di dismettere taluni impianti che attualmente utilizziamo nel territorio di Roma Capitale e la possibilità di determinare un miglioramento dei servizi di pulizia e di decoro della città, se questi sono gli obiettivi, la valutazione delle risorse che saranno richieste la dobbiamo fare insieme, passo per passo. Ecco, quindi insomma il suo è un atteggiamento, per così dire, bisognerà vedere cosa mi dicono, perché lì la cifra che girava era molto molto molto impressionante, cioè è una cifra sommata che è quasi pari al vostro contratto di servizio di 674 milioni. Sentiamo innanzitutto qualche ascoltatore, c'è Susanna che ci chiama proprio da Roma. Prego Susanna. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo brevemente raccontare che cosa vuol dire aver fatto parte della sperimentazione per la raccolta differenziata in zona Appia Nuova, quindi insomma relativamente centrale. A noi improvvisamente ci hanno tolto i cassonetti dell'indifferenziato e ci hanno detto che dovevamo andare con le buste dell'umido e dell'indifferenziato nei punti di raccolta. Sì. che erano ad orari diversi in zone diverse del quartiere, un disastro. Quando è avvenuto questo? Guardi, noi l'abbiamo fatto credo per un paio d'anni, adesso da quando è cambiato il sindaco più o meno, la raccolta differenziata è sparita, per cui noi siamo rimasti sotto il portone con cassonetto della carta e della plastica ed è sparito il cassonetto indifferenziato. Sono spariti i punti di raccolta. Il risultato è che sia prima che ora la gente non ha voglia di andare a cercare per il quartiere. È chiaro, beh, è chiarissimo quello che accade quando chiarissimo. Tutto dove trova, per terra, dove trova il primo cassonetto di qualsiasi genere, ammucchia tutto lì. È una cosa assurda perché noi non sappiamo dove andarla a buttare la spazzatura, non ci ridanno i cassonetti e non fanno la raccolta differenziata. Grazie Susanna, beh è ovvio che la conseguenza è negativa. Io immagino che Daniele Fortini abbia l'idea quanto a Roma il problema sia diffuso, però io voglio fare un'altra domanda perché proprio due mesi fa le cronache di tutti i quotidiani sono state occupate per giorni da una grande operazione di polizia giudiziaria della procura che incarcerava insieme a tanti altri la figura di riferimento per decenni, punto di riferimento dello smaltimento industriale, il proprietario di Malagrotta, per capire, ecco, e lo descriveva in tutti gli altri indagini che c'erano sui giornali come al centro di una rete capace di condizionare potentissimamente tutta la politica a Roma e anche a livello nazionale, ma soprattutto la vita degli enti locali, regione, provincia e comune di Roma. Ecco, per voi che avete il problema ovviamente di dover dismettere degli impianti, di dover prendere delle decisioni su come smaltire eccetera eccetera, visto che poi tra inceneritori, tra zone di smaltimento è una cosa su cui giustamente sono tutti ipersensibilissimi, il quadro post giustizia di quello che si trova adesso ad affrontare com'è secondo lei? Beh, il quadro si presenta per un verso chiarito, nel senso che l'ingombro, se mi è consentita l'espressione, di un grande monopolista dello smaltimento nella capitale, questo a questo punto è superato, ed è superato non tanto dall'inchiesta della magistratura, che farà il suo corso e vedremo, e io credo che sarà un'operazione di giustizia, chi ha le responsabilità ovviamente gli saranno si vedrà, certo. E è chiusa Malagrotta, questa è la grande novità introdotta da questa amministrazione, ma non c'è più, non si prendono più i rifiuti e si buttano dentro una buca lasciando ai posteri la soluzione, ma i rifiuti invece si trattano per valorizzarli. Allora Fortini, noi dobbiamo per forza fare un'altra puntata perché siamo stati troppo poco tempo, io purtroppo la devo salutare oggi e dire a tutti continuate su Radio 24, appuntamento con me a lunedì.